prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Riprendiamo il nostro percorso insieme alla Caritas Diocesana di Padova, specificamente andando a conoscere i nuovi e anche già costituiti o in fase di costituzione centri di ascolto vicariale delle povertà e delle risorse. Iniziamo il nostro viaggio dal vicariato del Bassanello, quindi siamo nell'ambito della città di Padova, le porte di Padova, zona sud-ovest. Abbiamo al telefono Giuliana Fasolato, che è responsabile dello sportello alla parrocchia di Don Bosco, alla Paltana, proprio per il vicariato. Ben trovata Giuliana e grazie per la disponibilità. Grazie a voi e grazie di questa opportunità. Dunque, voi siete stati costituiti, aperti ufficialmente appunto nella nuova forma voluta dalle Caritas Diocesana come centro di ascolto vicariale delle povertà e delle risorse, perché questo è il nome completo, circa un anno fa. Ricordiamo qual è la vostra attività. Ecco, se vogliamo sintetizzare la nostra attività, sicuramente parliamo di ascolto come primo aspetto, vicinanza e supporto alle persone che stanno vivendo momenti di difficoltà, il tentativo di attivare delle reti di aiuto formale e informale all'interno delle comunità in cui viviamo, delle zone in cui viviamo. Si cerca di capire i bisogni, si cerca di dare dei supporti, di essere di aiuto come ponti in certi casi tra quello che è il problema e quelle che possono essere le risorse anche istituzionali, quale può essere l'assistente sociale piuttosto che altri sportelli che possono essere appunto di supporto alle varie situazioni e spesso non sono conosciuti o che, soprattutto nel caso di persone straniere, diventano di difficile approccio e per le difficoltà anche proprio linguistiche. E poi, prego. No, finisca. Ecco, e poi per quanto possibile interveniamo con piccoli aiuti di carattere economico nei momenti di emergenza, come può essere il rischio di distacco dell'acqua piuttosto che dell'energia elettrica, quindi interveniamo aiutando a far fronte appunto alle bollette. Questa è una parte che comunque facciamo nella maggior parte dei casi in accordo anche con gli assistenti sociali di zona. Ecco, il dare i soldi o comunque il pagare le bollette è comunque necessario in alcuni casi, ma viene dopo, insomma, ci ha detto la prima parola ed è anche nel nome, è proprio ascoltare. E la domanda che viene subito spontanea da fare è chi c'è? Lei ha detto stranieri, quelli che sono stranieri significa che ci sono anche italiani. Sì, diciamo che stiamo vedendo un incremento anche della percentuale di presenza di italiani che si rivolgono a noi in appunto situazioni di difficoltà, persone, se vogliamo capire un attimo meglio, vediamo parecchie situazioni di solitudine, persone che vivono da soli, magari in stato di separazione o comunque che non hanno una rete familiare alle spalle. E questo per quanto riguarda gli italiani, poi per quanto riguarda le persone straniere vediamo situazioni invece di famiglie magari numerose che pur o non avendo lavoro o avendo anche la famiglia che lavora ha difficoltà comunque a far fronte a tutte le spese che il nucleo familiare richiede. Quelli che si rivolgono a voi, lei appunto allo sportello Don Bosco, ma nel vostro vicariato c'è anche lo sportello a Santa Teresa alla Guizza, sono persone residenti in quella zona oppure c'è gente che ha altre provenienze? No, proprio per scelta e regola diciamo del centro di ascolto noi ci cerchiamo di seguire essenzialmente le persone che vivono nel nostro territorio, persone che vengono da altre parti della città, per capirci, le indirizziamo ai centri di ascolto della zona oppure alla Caritas diocesana, che è quella in via Bonporti. Certo, al centro diocesano. Sì, esattamente. Lei, appunto, con altre persone fate questo servizio. Quante volte alla settimana è aperto il vostro sportello? Quanti siete voi come volontari? E che tipo di formazione avete fatto e fate? Allora, gli sportelli, dicevamo, sono due, uno a Don Bosco e uno a Santa Teresa, in totale siamo 15 o 16 persone e ci torniamo, cioè gli sportelli sono aperti due volte alla settimana, una volta a Don Bosco e una volta a Santa Teresa. E noi siamo presenti praticamente tutte le settimane, cioè siamo organizzati in questo modo, c'è un'equipe che ascolta e fatto l'ascolto poi c'è un lavoro di gruppo che analizza le problematiche, decide delle azioni e di conseguenza c'è un'equipe che ascolta e un'equipe che lavora dietro sulle problematiche che abbiamo incontrato in precedenza. O che condividiamo, non è proprio semplice spiegarlo, ma in definitiva quello che mi interessa sottolineare è che il lavoro sia di incontro che di riflessione sul caso che ci viene proposto, sia di decisione, comunque tutto un lavoro di equipe. Che si condivide appunto sì. All'interno del gruppo. Esatto. Quindi non è che si dà comunque, si cerca di dare una risposta a tutti, ma non è che si dà una risposta così alla cieca, si verificano le situazioni. No, assolutamente. Diciamo che noi abbiamo questo, diciamo lo sportello è aperto un paio d'ore, due volte alla settimana, poi dietro c'è tutto un lavoro di condivisione della problematica e poi ognuno di noi comunque si porta a casa, fra virgolette, delle azioni, quali possono essere il contatto con l'assistente sociale, piuttosto che la ricerca della scuola, piuttosto che tutte quelle informazioni che possono servire, che poi vengono riportate alla persona la volta successiva quando ci incontriamo, oppure attraverso contatti telefonici. Non è un'attività, ripeto, che si svolge, non è un'attività di mero sportello, la persona viene, ci chiede, noi rispondiamo positivamente o negativamente, si cerca di dare, di seguire queste persone nel modo più completo possibile e per questo c'è ovviamente dietro tutto un lavoro anche da parte nostra di approfondimento, di conoscenza per poter dare al massimo. Ecco Giuliana, a proposito della formazione specificamente cosa fate? Beh, noi abbiamo seguito un corso di formazione organizzato appunto dalla Caritas diocesana che ci ha portato ad affrontare problematiche siamo stati formati su problematiche di relazione e anche problematiche tecniche quali possono essere quelle legate alla privacy, che è un argomento molto delicato che affrontiamo, ma soprattutto puntato al discorso relazione sia all'interno del gruppo, quindi dell'equipe, sia per il contatto con le persone che incontriamo. Quindi non c'è, diciamo, una improvvisazione fra virgolette da parte nostra, ma siamo formati e siamo costantemente formati perché abbiamo anche corsi di formazioni che seguono nel tempo. Avremo una giornata di formazione anche il 19 aprile con tutti i volontari dei centri di ascolto. E allora auguriamo buon lavoro a tutti voi volontari per il vicariato del Bassanello. Abbiamo avuto al telefono la signora Giuliana Fasolato, responsabile dello sportello di Don Bosco. Grazie allora e fin d'ora buona Pasqua. Grazie, che ricambio di cuore. Grazie. Avete ascoltato? Prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas.